Replay. Bentrovati a questo primo appuntamento con Replay, la trasmissione che Radio 24 dedica alla riproposizione dei dibattiti e degli interventi più interessanti che si sono svolti in Italia negli ultimi mesi. Oltre alla puntata di oggi, Radio 24 ha in programmazione altre due puntate di Replay, una domani 26 dicembre e una terza il 1 gennaio, sempre dopo il GR delle 17. Ma torniamo al tema di questa puntata. Il giornalista Antonio Galdo è partito con il libro Non sprecare, pubblicato da Einaudi, alla scoperta di un'Italia diversa, che non inquina, non sciupa e non accumula rifiuti. Il sottotitolo del volume è esplicativo: Le virtù della sobrietà e del risparmio intelligente contro la cultura usa e getta di una società che ha fatto dello sperpero la sua bandiera. Quali sono i temi affrontati nel libro? Quali gli sprechi che il giornalista imputa all'Italia e agli italiani? Ascoltiamo alcuni estratti dal dibattito pubblico che si è svolto presso la sede della Fondazione Enrico Mattei a Milano. L'autore parla del suo libro con due interlocutori molto diversi: Don Virginio Colmegna, capofila del volontariato cattolico militante, e Francesco Micheli, finanziere di punta dell'establishment economico. Voglio raccontarvi in pochi minuti semplicemente qual è l'idea di questo libro, dove cerco di mettere insieme due cose: gli sprechi materiali e gli sprechi immateriali. Gli sprechi materiali sono quelli che apparentemente più ci indignano, specie quando riguardano gli altri e non noi stessi. Pensate al cibo, pensate ai soldi pubblici, pensate anche alle risorse naturali e pensate a tutto quello che consumiamo di assolutamente superfluo. Voglio darvi qualche elemento che, quando sono andato a verificare sul campo, mi ha letteralmente esterrefatto. Pensate che in Italia circa il 20% della nostra spesa, pane, pasta, carne, finisce nel cestino senza essere consumato. Sprechiamo perfino i rifiuti, perché ognuno di noi, ogni volta che compra quelle confezioni così ben impacchettate secondo le leggi del marketing, compra i cosiddetti imballaggi che valgono circa il 40% dei nostri rifiuti e sono assolutamente inutili molto spesso, aggiungendo spreco su spreco, perché allo spreco del materiale si somma poi lo spreco dei costi, perché incidono fino al 60% sul prezzo di un prodotto. Siamo dei grandi spreconi quando si tratta di soldi pubblici. È stato fatto un conto su che cosa sono in Italia le auto blu nella pubblica amministrazione. Rappresentano una fila di 3.000 chilometri, se le dovessimo mettere una dietro l'altra, con un costo per la collettività di circa 18 miliardi di euro l'anno. Dicevo però, lo spreco che mi ha più colpito, che mi ha più affascinato anche dal punto di vista del lavoro di autore, è lo spreco dei beni immateriali. E qui veramente è difficile fare una gerarchia, nel senso che entriamo in un ambito che ha a che fare con i valori della persona umana, quindi molto difficile da quantificare soltanto attraverso le statistiche. Ma cosa altro potremmo definire, se non spreco, il fatto che nel mondo si contano quasi 42 milioni di aborti l'anno? E non vi sembra uno spreco quello che riguarda la nostra salute, il nostro corpo, il fatto che in Italia, per esempio, un adolescente su tre ha già bevuto di tutto? O ancora il fatto che le ragazze tra i 15 e i 24 anni, una su 10 soffre di anoressia? Ho parlato nel libro, a proposito di sprechi immateriali, dello spreco del tempo, dello spreco delle parole. Siamo tutti affascinati dalle tecnologie, ci siamo tutti convertiti all'uso delle tecnologie e sempre di più la tecnologia ci porta a un fenomeno, da un lato, di integrazione tra la televisione, il computer, il cellulare, ma sempre di più, secondo me, sostituisce in modo invasivo i rapporti umani, sostituisce e modifica il nostro linguaggio. In Italia si scambiano 30 miliardi di messaggini l'anno. I nostri figli hanno imparato perfino a coltivare rapporti, relazioni, amori, affetti attraverso le tecnologie. Io credo che lo spreco sia qualcosa in più di un'abitudine, di un vizio. Lo spreco è la bussola con la quale siamo destinati in questo momento della nostra vita a orientare i nostri comportamenti. Una bussola che condiziona in modo ingombrante sia l'economia, i rapporti economici e innanzitutto direi i consumi. Consumo ergo sum, questo mi sembra il punto nel quale ci troviamo in questo momento e il punto nel quale siamo entrati in crisi, nel senso che abbiamo considerato, importando anche modelli che non ci appartengono, il consumo in quanto tale un modello di sviluppo, una leva sulla quale costruire un equilibrio non solo economico e quindi degli stili di vita. Ed il consumo lo abbiamo abbinato all'eccesso, al superfluo, a ciò che assolutamente non ci serve. Qui non valgono più le leggi della statistica, qui vale un semplicissimo esercizio che vi invito a fare nelle nostre case, aprendo semplicemente gli armadi e vedendo che cosa abbiamo e che cosa assolutamente non ci serve. Ma lo spreco, in quanto bussola di una vita, io credo che oggi orienti una gerarchia di valori. Questo è l'elemento, dal mio punto di vista, più preoccupante e anche più interessante rispetto al cambiamento. Nel senso che lo spreco si abbina all'eccesso, all'abbondanza, ma si abbina innanzitutto a una gerarchia di valori dove alcuni sono scomparsi e li abbiamo di fatto derubricati. Ve ne cito uno per tutti, perché mi sembra un valore assolutamente condivisibile da persone che hanno una particolare sensibilità religiosa a persone che non ce l'hanno. La sobrietà è una parola assolutamente fuori moda, è una parola assolutamente desueta ed è una parola che abbiamo perfino cancellato dal nostro lessico. A questi valori abbiamo sostituito altri valori, tra i quali il narcisismo, l'indifferenza, che sono, secondo me, figli proprio dello spreco, figli proprio di questo serpente che cova dentro di noi. Ecco, io chiedo a voi e chiedo a tutti se un mondo così ci sta bene, perché secondo me bisogna partire da questo. Se cioè ci sta bene un mondo che secondo me è stato rappresentato in maniera straordinariamente efficace dalla prima omelia durante una Via Crucis che fece Benedetto XVI quando divenne Papa, dove lui disse una frase che andrebbe scolpita: un mondo dove in una stanza si crepa e in una stanza si spreca. Io credo che questa sia la fotografia dell'equilibrio che è saltato con la grande crisi. Un equilibrio che evidentemente non poteva reggere perché era fondato su un'idea, su una illusione ottica che più consumo, più incentivo al superfluo significasse di per sé più sviluppo e quindi più benessere per tutti. In realtà questo disequilibrio si è ulteriormente allargato, per cui abbiamo vissuto un paradosso, un mondo che ha creato nuove economie di cui ci siamo immediatamente innamorati e un mondo che però ha allargato le sue diseguaglianze. Siamo tutti convinti che non esiste un'alternativa a questo modello di sviluppo, dobbiamo tutti arrenderci di fronte all'idea che in fondo sprecare è indispensabile, è necessario, è insito quasi nel sistema che abbiamo creato? Ecco, io rispondo assolutamente no e credo che non sprecare sia una rivoluzione possibile, un modo di coniugare il cambiamento, il futuro con una prospettiva nuova e sarà sicuramente quello che ci aspetta nei prossimi 10 anni, mossi, ripeto, da una crisi che non è una crisi ma è un cambio d'epoca e quindi come tale ci costringerà quasi ad assumere nuovi stili di vita. Questi i temi messi sul piatto da Galdo. a Don Virginio Colmegna, attivo a Milano nel volontariato, il compito di rispondere alla domanda: la crisi odierna servirà a cancellare l'errore dello spreco insito nel consumismo? La vera crisi, credo, del non sciupare nasce evidentemente da una complessità, da una cultura di vita, di relazioni, di bene comune, di dimensione di fraternità, di relazione con gli altri, di accumulazione di progetti di giustizia, di uguaglianza, di relazione con l'altro non soltanto come una persona da allontanare, ma uno che entra dentro. Allora la sfida credo che ci sia oggi è di riaprire un dialogo diverso, dove avvertire che anche il riferimento, per esempio, al non sprecare non è nella logica della punizione o della logica del peso, ma è nella logica della felicità del vivere, di una qualità di vita diversa. Tra l'altro nella nostra tradizione, dico la mia tradizione che nasce dal Vangelo, il tema della povertà è sostanzialmente preso come tema legato accanto al tema della miseria, accanto al tema della sopportazione, accanto al tema della non indignazione, accanto al tema non delle beatitudini. Il tema della povertà è stato astratto sostanzialmente da una dimensione sostanzialmente di stili di vita, di concezione di vita. Io credo che questa sia una prima riflessione da fare. Bisogna riconsegnare il tema della beatitudine in un'ottica francescana. Io credo che Francesco, nella storia del suo secolo, non ha insegnato semplicemente una testimonianza di rottura dal padre mercante e così via, non si è spogliato semplicemente, ha buttato dentro un'energia di cambiamento dentro in quella società, nella società dello scambio, dell'economia anche sociale e fraterna, che è il fondamento anche di una visione di vita anche diversa. E allora la sfida sostanzialmente è una sfida di natura culturale, di natura di processi formativi. C'è il problema di avvertire che le contraddizioni che poniamo sul territorio, nelle varie dimensioni che ci sono qui, che vanno dalla dimensione personale alle grandi sfide della fame, alle grandi sfide della tensione della vita, della morte, del dolore, della sofferenza, nasce una dimensione che è quella, badate bene, che questa potenzialità di società, di socialità che vi è, che non sta dentro una concezione dell'individualismo esasperato sostanzialmente, che sta dentro una concezione della valenza della relazione con l'altro, si consegna a noi come prospettiva di futuro e di sviluppo se smontiamo profondamente la dimensione individualista, la dimensione proprietaria, nel senso proprio negativo, dell'altro come diverso da me, come opposto. Abbiamo bisogno allora di pescare nelle esperienze sociali che ci sono, in questa socialità carica di senso, pescare la possibilità di ricostruire continuamente percorsi politici, percorsi economici, percorsi culturali, percorsi di apprendimento che stanno dentro nella qualità della vita. Milano, dicono tutti, che è la capitale del volontariato, è piena di esperienze, di energie gratuite, così parrebbe. A questa non corrisponde una cultura che sia una cultura di fraternità, di accoglienza e di ospitalità. E quindi c'è un problema evidentemente di carattere culturale, dove sostanzialmente siamo collocati nella dimensione dell'emergenza, citati in questo marketing della bontà, per cui il primo fatto di non sprecare, non sprechiamo la bontà, che è uno dei valori che sostanzialmente è così importante che va riconquistato dentro la propria dimensione di relazione, di qualità e non semplicemente di quantità. È chiaro che allora l'approccio di carattere culturale, non posso vivere un'ospitalità dove ho 82 nazionalità, 82 volti, 82 storie, donne con una serie di sofferenza tremenda che ci sono, e catalogare tutta questa esperienza di ospitalità nel capitolo solo della testimonianza e non incidere invece nella cultura politica, nella cultura sociale, nella cultura delle priorità, nella cultura anche economica di sviluppo e di integrazione. È chiaro che non posso vestirmi e andare a mensa per Natale, visto che siamo nel periodo, e accomodarsi alla tavola con tutti, farli diventare genericamente poveri. Io ho lì degli immigrati che hanno due lauree, che non sono poveri, se poveri si intende un'accezione di diritti rispetto a questo, sono poveri di diritti qualche volta, sono poveri di una cittadinanza che è dentro questo tipo di elemento. È chiaro che lo spreco anche alimentare, tra l'altro, consuma molto di più qualche volta, perché l'idea del consumo sta prendendo soprattutto quelli che hanno situazioni di debolezza, di fragilità, di vulnerabilità, che hanno anche situazioni di miseria e di povertà. Non è vero che il povero desidera la qualità della vita giusta. È più carico di consumo e di domanda. Io continuo a dire sostanzialmente che se pensiamo di fare assistenzialismo e di consegnare soldi aggiunti a soldi, questi accumulo probabilmente vanno all'Enalotto in fretta, al banchetto dell'Enalotto trovo molto di più i quartieri popolari che non gli altri rispetto a questo. Al banchetto sostanzialmente della fortuna immediata rispetto a questo, non a caso in questo periodo di crisi, c'è un boom sostanzialmente del rischio della fortuna come elemento. E sta entrando un elemento di accumulazione della domanda di denaro come felicità conquistata immediatamente. E la drammatica cultura che sta vincendo è sostanzialmente che il tema della ricchezza quantitativa sta diventando la grande impronta culturale di fascino che sta attraversando tutti. E allora il tema del non sprecare è come il tema della povertà, delle relazioni della fragilità, dell'attenzione alla fragilità, cita l'anoressia, ma cito il tema della salute mentale, della sofferenza, dei drammi che ci sono rispetto a questo, che stanno dentro, cita il tema del consumo. Quando in una popolazione come a Milano il tasso di consumo delle polidipendenze, dalla cocaina e tutto il resto, ha ormai il volto della normalità, non ha il volto della figura dell'eroinomene schiacciato ai margini, noi ci rendiamo conto che c'è una sfida che riguarda tutti complessivamente, va riportato al centro il fascino della vita sobria e della cultura sobria, dell'economia sobria, della coerenza rispetto a questo. E allora non c'è la schizofrenia del regalare parole di bontà, e queste non si negano a nessuno, e poi riprodurre sostanzialmente una vita che dice non c'è più niente da fare. L'incrocio tra cultura, capacità di sviluppo economico, questo è estremamente importante, altrimenti succederà che c'è una grande predicazione di avvertenza che tutti si lamentano e poi tutti sono lì sostanzialmente quasi impotenti. E allora, ed è l'ultima parola che io sento, Don Milani diceva che la carità senza giustizia è una truffa. E credo che rispetto a questo ci sia dentro una dimensione anche molto forte di indignazione, di sofferenza, ma anche di quegli elementi che spesso vengono dentro in questa società smarrita. Certo che bisogna superare il filone del pietismo dell'assistenzialismo, che la bontà è una pacca sulle spalle, e qui c'è una grande contraddizione culturale. Noi abbiamo un mondo, non l'amico che voi parla col quale condividiamo, abbiamo un mondo paradossalmente che è forte di attività economica, di capacità anche di intervento, di grande agire, che sul tema della relazione di aiuto sostanzialmente invocano ancora un buonismo che poi addebitano noi che buonisti non siamo. Tutt'altro sguardo è quello che al tema dello spreco e del consumismo può dare il finanziere e businessman Francesco Micheli. La crisi di oggi mette a nudo la debolezza di un modello, quello consumistico, che aveva in sé l'ineluttabilità del fallimento fin da quando si affidava al miraggio della crescita all'infinito, del consumo che alimenta consumo. Forse in questo senso l'imperativo di oggi, non sprecare, suona come la tardiva presa di coscienza che la nostra epoca è morta qualche anno fa. È un cambio d'epoca che non è successo oggi, è un cambio d'epoca che è successo circa 15 anni fa. È successo, diciamo, dopo la caduta del muro di Berlino, quando diciamo un mondo ha pensato non solo di avere vinto contro un altro mondo, ma di avere stravinto e di poter fare scelte politiche ben chiare e ben precise. Cioè, a mio modo di vedere, non c'è stato l'errore di diciamo utilizzare un sistema che poi si è chiamato globalizzazione, l'errore di avere sottovalutato il rischio di prodotti finanziari infetti. Non sono stati errori, sono state scelte politiche, a mio modo di vedere. Scelte politiche che hanno portato a azioni in campo militare, in campo politico e in campo economico-finanziario, tutte legate da uno stesso filo, che era un filo legato a diciamo un antico mito di tanti popoli, di tanti, cioè questa idea della crescita tendente all'infinito, quest'idea dell'imperio tendente all'infinito, quest'idea, diciamo, assolutistica, che è la cosa più discriminatoria e più diciamo fondamentale proprio nella discriminazione che c'è, nella sottovalutazione dei diritti e delle logiche degli altri. e che così come ha portato sul piano militare diciamo risultati aberranti, dal punto di vista tecnico si è trattato di una delle più straordinarie mistificazioni di realtà. La stessa cosa è stata fatta sul piano economico-finanziario con l'invenzione di prodotti che consentivano di conquistare un qualche cosa che avrebbe assicurato una crescita tendente all'infinito. E tutto ciò ha potuto avvenire grazie a un meccanismo semplicissimo, che si è chiamata anche globalizzazione, ma che in realtà è stata la propaganda, cioè la propaganda, formidabile propaganda dei media, formidabile propaganda di gente che, se tu osavi, o dalle posizioni di Don Colmenia o da quelle di osservatore dell'economia o di operatore, se osavi dire qualche cosa di contrario, venivi guardato con disprezzo e con commiserazione, cioè come se fosse una follia ritenere che la crescita verso l'infinito è una delle utopie che ha ingannato il mondo tante volte, e questa volta in modo veramente globale. Allora, questa scelta politica di errori sul piano militare, politico, economico, finanziario è stata ancora quella che, a mio modo di vedere, ha determinato queste discrasie di cui parliamo oggi. Cioè non è che oggi ci sia un cambio d'epoca. Il cambio d'epoca c'è, in senso che mi auguro, spero, sono convinto che porterà a rivalutare aspetti fondamentali come quello che è stato detto prima della sobrietà e di tutto quello che ci sta attorno, ma è un qualche cosa che è nato, ripeto, proprio da scelte politiche e da conseguenze che hanno segnato il cambiamento d'epoca circa una quindicina d'anni fa. Ora, la forza di questa propaganda, come dicevo prima, ha veramente convinto anche persone di grandissima lucidità. Io sono rimasto veramente sorpreso come persone intelligenti, preparate, forti, intellettualmente forti, siano cadute in questo equivoco politico, economico, finanziario, sociale, etico possiamo dire, che ha portato a questi risultati. Certo, una delle concause, a mio modo di vedere, è stata la mancanza di un'antitesi dialettica, nel senso che quando manca una forte presenza antitetica a certe tesi, è chiaro che queste poi sfociano, diciamo, senza possibilità di limiti, così come oggi vediamo l'aumento della povertà, il problema della fame, insomma l'inquinamento, l'ambiente, tutte queste cose, e succede tutto ciò proprio in un momento in cui i governi stanno prendendo decisioni che sono, sottolineo, misure di emergenza da pronto soccorso, non sono la soluzione del problema, perché una delle altre conseguenze gravi di queste scelte politiche è che non c'è la capacità, si intravede, e io spero molto negli Stati Uniti, che avendo fior di università, avendo capacità di rigenerazione straordinaria, possono probabilmente, dopo queste misure di emergenza e di pronto soccorso, pensare di reinventare un modello capitalistico come fece Roosevelt dopo la crisi del 29. Beh, finora non si vede nulla di tutto ciò. E devo dire che fa sorridere quando, accendendo televisioni o leggendo dichiarazioni politiche, si sente dire: ma dovete aumentare i consumi per rilanciare l'economia, che è una interpretazione, diciamo, collaterale a un pensiero keynesiano, perché non è così semplicistico, ma che stride orrendamente con quello che viene scritto qua. Per cui aumentare i consumi, a parte che è una beffa per chi consumi non li può fare, perché poi, insomma, quando ci sono queste crisi economiche bisogna tenere ben presente che i poveri non hanno titoli quotati in borsa. Diciamo, la crisi finanziaria non è che cambia così tanto, perché di fatto gli straricchi li cambia pochissimo, perché tutto al più si ridimensionano un po'. Chi soffre veramente è la cosiddetta classe media, perché quella veramente è quella che subisce le conseguenze di una crisi conseguente sull'economia reale, di cui abbiamo già i primi segni, che purtroppo continuerà l'anno prossimo. Per cui mi sembra quasi una beffa che si dica appunto a questa classe: no, guardate, consumate di più, perché questo è un modo per rilanciare l'economia. No, è un modo per aumentare l'entropia del mondo, è un modo per riportare all'eccesso, a attraverso ancora delle forme di propaganda, una malattia che è quella che ha inquinato il mondo in cui stiamo vivendo. Chiudiamo qui questo appuntamento natalizio con Replay. Un ringraziamento alla Fondazione Mattei per la collaborazione nella realizzazione della puntata. Buona serata.